Buonasera e benvenuti a questo ennesimo evento. Qualche volta mi ripeto nelle varie serate, quindi mi scuso, qualcuno dirà ma dice sempre le stesse cose, però un concetto importante che voglio dire stasera è questo. Il merito, noi quando organizziamo queste serate puntiamo molto sulla collaborazione e la serata di questa sera è giusto dire di chi è il merito. Questa serata è stata organizzata con la prestigiosa persona che abbiamo qui come relatrice, grazie al Centro Culturale Cardinale Elia della Costa e in particolare la sua presidente Paola Lais, a cui lascerò la parola fra un attimo per quelli bravi direbbero un indirizzo di saluto, e in realtà gli lascerò la parola perché sarà lei a fare la presentazione, quella seria ufficiale. Io invece, visto l'ambito in cui siamo, che non è un convegno universitario serioso, ma è una rassegna di cultura, spettacolo, un po' anche vivace, mi permetto una battuta che mi ha fatto un amico l'altro giorno, e mi scuso in anticipo perché gioco sul nome della nostra prestigiosa relatrice. Questo amico mi ha detto l'altro giorno, qualche giorno fa, ma state cadendo in basso, io speravo invitaste una cima, e invece avete invitato una cimetta. Se fossi stato un toscano gli avrei detto grullo, invece lascio immaginare a voi cosa gli ho risposto essendo un veneto. Non lo ripeto perché sarebbe un epiteto irripetibile. Gli ho solo detto, ma guarda che cimetta fa rima con vetta, e vetta è molto più alta di una cima. Detto questo, rubo ancora 2 secondi e dopo lascio appunto la parola alla presentatrice più seria, che è la dottoressa Lais, per dire 2 cose. Voi sapete chi ci frequenta, che ogni sera io ringrazio qualcuno che collabora con noi, chi segue i vari ambiti, e siamo in tanti. Stasera volevo ringraziare i tecnici qui del teatro, che lavorano come dei matti per gestire tutte le emergenze. Anche stasera stessa hanno scoperto alla fine che c'era un piccolo problema tecnico da risolvere, risolto immediatamente. Domani saranno qua tutto il giorno, dalla mattina alla sera, per preparare l'evento di domani, che a proposito approfitto a dire è lo spettacolo teatrale di Paolo Händel, per il quale ci sono ancora dei posti, quindi se foste interessati. Quindi ecco, volevo fare un grosso applauso e un grosso ringraziamento a tutti i tecnici che vedete in fondo alla sala e che lavorano come dei matti. Ultimissima cosa, e anche qua direte, ce lo dici tutte le sere, all'uscita troverete delle cassette, a noi serve qualsiasi piccolo contributo, sapete che la nostra mentalità, cioè il motivo, il nostro modo di operare parte da dire finanziamo la cultura mangiando panini, mangiando, stando in compagnia, facendo una cena insieme, però i costi sono sempre tanti, quindi se, siccome sono sicuro la serata sarà per voi e per tutti arricchente, ecco, se vorrete lasciare qualcosa a noi non dispiace. Detto questo, lascio il microfono alla presentatrice ufficiale, la dottoressa Paola Lais. Grazie. Grazie Alberto. Mamma che luce. Buonasera a tutti. Come ho detto prima, se le persone che sono dietro vengono davanti, magari riescono a seguire anche meglio. Abbiamo il piacere di avere di nuovo con noi la dottoressa Elisa Cimetta. Sono andata a guardare nel librone del Dalla Costa quando era venuta, era l'ottobre del 2017. Allora era appena rientrata dai suoi lavori negli Stati Uniti e doveva ancora creare questo super laboratorio all'Università di Padova. In questi anni ci è riuscita, merito della sua forza d'animo, oltre alla sua intelligenza e preparazione, ma anche la sua decisione e la sua forza d'animo. La dottoressa Cimetta è veneta, di Vittorio Veneto, abita a Padova. Dopo la maturità scientifica si è laureata in ingegneria chimica all'Università di Padova. Direte, cosa c'entra l'ingegneria con lo sviluppo della medicina? C'entra perché le ultime ricerche anche mediche si avvalgano della multidisciplinarietà, e quindi vedremo dalle spiegazioni della dottoressa quanto l'ingegneria chimica e industriale sia utile anche per la ricerca medica. Ha seguito, poi è diventato dottore di ricerca in ingegneria industriale. Nel 2010 ha vinto questa famosa, importante selezione internazionale, per cui è diventato ricercatore associato presso la Columbia University di New York. e dal 2010 al 2013 è stata segnataria di un'altra prestigiosissima borsa di studio, sempre negli Stati Uniti. È stata cofondatrice di un'azienda che è spin-off della Columbia University, che si occupa della generazione di tessuto osseo a partire dalle cellule staminali del paziente. Mi diceva che adesso stanno già facendo, dopo ci racconterà, gli esami già da un anno sono iniziati, queste prove su pazienti. Lei ultimamente non può seguire completamente, però è sempre tra i fondatori e segue da qui questi grandi passi avanti della medicina. Dal 2016 è docente presso l'Università di Padova nel Dipartimento di Ingegneria Industriale. Come è riuscita a creare questo laboratorio importantissimo? Perché si è data da fare veramente in prima persona ed è riuscita ad avere delle sovvenzioni da parte dell'Europa in modo da poter portare avanti queste tecnologie innovative, soprattutto per il neuroblastoma dei bambini. Infatti la dottoressa Cimetta, oltre a essere docente dell'Università di Padova e lavorare all'Università di Padova, lavora anche alla Città della Speranza. Volevo sottolineare una cosa che mi ha sempre stupita già da quando l'ho incontrata la prima volta. Lei ha detto, allora, è mamma, ha una bimba di 9 anni, quando era in America e è rimasta incinta ha detto no, mia figlia sarà italiana. È tornata in Italia, allora è una grande intelligenza italiana che ha lavorato all'estero, che continua, ci diceva prima che la settimana prossima sarà in Spagna, poi sarà di nuovo in America, però è tornata a lavorare, a fare ricerca in Italia con la sua famiglia. Quindi mi piace vederla come un esempio di una persona che, facendo forza sulle sue capacità, sulle possibilità che vengono offerte, sta portando avanti ricerche di altissimo livello anche qui da noi, nella nostra università. Ve la lascio, è simpaticissima, chi la ricorda Centro di Cultura Dalla Costa nel 2017 lo sa, chi non l'ha ancora conosciuta lo scoprirà questa sera. Buon ascolto. Alla fine, se qualcuno vuol fare qualche domanda, la dottoressa è disponibile. Buon ascolto a tutti. Preferisci questo? Sì, così in caso questo poi le tengono. Bene. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, grazie mille per le gentilissime e carinissime parole. Spero appunto di non annoiarvi e di convincervi su alcune delle cose che vi sono state anticipate, soprattutto sul come effettivamente sia possibile che un ingegnere possa mettersi a lavorare su temi di questo genere. Allora, parte della mia storia l'avete già sentita, ma nelle prime diapositive la rivediamo un attimo. Allora, io in realtà sono originaria vicino a Vittorio Veneto, questo è il mio paesino natale, 6.000 anime, nel vittoriese. E si chiama Cappella Maggiore, che di maggiore non ha molto perché appunto è proprio piccino. E nel mio percorso di studi appunto poi mi sono trasferita a Padova, dove ho deciso con grande stupore della mia famiglia di appunto intraprendere lo studio dell'ingegneria chimica. Dopo la laurea ho iniziato appunto il dottorato di ricerca ed è stata lì che per la prima volta ho avuto la possibilità di andare negli Stati Uniti. Qui vedete un'immagine di New York, in realtà in quel periodo ho fatto una parte a Boston all'MIT e poi alla Columbia University, dove ho conosciuto appunto la docente che poi è stata il mio supervisore anche nel secondo periodo, quello più lungo che ho fatto dopo aver ottenuto il dottorato di ricerca, quindi come postdoc, così si dice, o assegnista di ricerca da noi. Quindi diciamo che questi 4 anni alla Columbia University hanno formato e fatto di me la ricercatrice che sono oggi, anche la persona, non solo la ricercatrice. Come diceva giustamente prima Paola, io sono partita con l'idea di voler rientrare. Per me gli Stati Uniti non erano la meta, la destinazione finale, ma un passaggio, parte del mio viaggio, che mi avrebbe comunque poi riportato a casa, perché questa per me è e rimarrà sempre casa. Negli Stati Uniti con cosa sono andata? Con la valigia vuota, diciamo, da riportare indietro piena di cosa? Di conoscenze, di esperienze, di contatti, di amicizie, di tutto. Cose che magari qui non avrei potuto avere. Come si sentiva prima, ho avuto il merito, la fortuna, insomma tutto quello che volete, di vincere questo finanziamento europeo. Lo dico senza problemi, praticamente esclusivamente grazie all'esperienza che mi sono fatta all'estero. Bisogna sapersi mettere in gioco e non aver paura di affrontare situazioni che possono sembrare, che sono difficili, perché non è una passeggiata di salute prendere, attraversare un oceano e rimanere lì 4 anni da soli. Comunque, vabbè, tutto questo l'ho riportato a casa e l'ho riportato ovviamente principalmente all'Università di Padova, che come vedete quest'anno compie 800 anni, quindi insomma un compleanno degno di nota, e nello specifico sono rientrata al Dipartimento di Ingegneria Industriale, dove appunto si raccolgono varie branche dell'ingegneria, abbiamo ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, ingegneria meccanica, elettrica, eccetera, e ho avuto la fortuna di avere anche l'appoggio della Fondazione Città della Speranza, e nello specifico all'Istituto di Ricerca Pediatrica. So che Città della Speranza di certo sarà nota a tutti quanti voi, ma vorrei spendere comunque qualche parola a riguardo. Quella che vedete nella foto è quella che noi chiamiamo la torre, è questo istituto di ricerca che oggi fra l'altro compie 10 anni, quindi come dicevo prima a cena sono qui ma dovrei essere lì perché ci sono i festeggiamenti proprio per il 10° compleanno dell'istituto, ma insomma poi passo a fare un saluto quando rientro a Padova. Quindi l'Istituto di Ricerca Pediatrica, come leggete, è veramente un centro di eccellenza, scusate, nella medicina e nella ricerca scientifica. Il focus principale è quello della ricerca rivolta alla comprensione, al tentativo di sconfiggere quelli che sono i tumori pediatrici, a migliorare sia la diagnosi, ma soprattutto la sopravvivenza di questi piccoli pazienti. Questa appunto che noi chiamiamo torre e che oggi compie 10 anni è stata praticamente interamente finanziata o quasi interamente finanziata da Fondazione Città della Speranza. È stata costruita in soli 3 anni e questo vi fa capire come quando c'è la volontà, al di là dei fondi ovviamente perché ci sono voluti 32 milioni di euro, ma c'erano, provenivano da donazioni, quindi chi ha donato ha visto effettivamente un progetto realizzarsi nel giro di 3 anni, cosa praticamente mai vista in Italia e insomma in questo ambito. E grazie all'attività di oltre 300 ricercatori all'interno di questo istituto, lo leggete qui, dagli anni 90 a oggi, ad esempio, si è riusciti a portare il tasso di guarigione da alcune malattie onco-ematologiche dal 70 all'85%, un aumento del 15% nella sopravvivenza di questi piccoli bambini. Anche grazie allo sviluppo di nuove terapie, della miglior comprensione di quali siano i meccanismi di questi tumori e di queste malattie. Quindi è un orgoglio, un onore farne parte. All'interno dell'istituto ci sono moltissime aree di ricerca, da quelle più tradizionali, diciamo, sulla genetica, lo studio delle malattie rare, poi l'oncoematologia, tutte le malattie del sangue, poi lo studio di queste nuove terapie innovative che si stanno sviluppando con cellule staminali, terapia genica e tutto quello che vedete, fino a quelle un pochino più innovative, quali ad esempio le biotecnologie mediche, la medicina rigenerativa e così via. Una parola che avete già sentito nominare è multidisciplinarietà e secondo me leggendo queste poche parole che vedete qui scritte già balza all'occhio, ma diciamo che è un pochino una cosa che trasversalmente vedrete all'interno di tutta questa mia presentazione. Ma il primo punto forse è proprio quello di cercare di convincervi di come una persona che è nata studiando una cosa di questo genere, quindi un ingegnere chimico, quello classico, col caschetto sporco, che impolverato, che fondamentalmente è cresciuto studiando su libri e dando esami che insegnavano che cosa? Come progettare e dimensionare scambiatori di calore, torri di raffreddamento, reazioni chimiche, trasporto di materia e così via. Applicate ad un coso di questo genere, ad esempio una centrale termoelettrica, quello che volete. Ma avendo io comunque fin da piccola, direi, avuto una passione, un fascino verso il mondo comunque della biologia, della medicina, Proprio durante il mio percorso di studi mi sono resa conto di come tutte le cose che io ho studiato, applicate a un impianto di questo genere, alla fine non fossero poi così lontane come principi fondanti da quello che invece succede dentro una cellula, come quella che vedete qui in questa immagine. Cioè, questa chiaramente è una visione estremamente semplificata di quella che è una cellula presente all'interno del nostro corpo, però quello che potete vedere, ad esempio, questi sono i mitocondri e sono delle centrali energetiche spettacolari. Nessuna delle nostre tecnologie potrà mai convertire energia in maniera così efficiente come fa un mitocondrio. Così come non potremo mai sviluppare un super computer in grado di controllare tutto quello che vogliamo meglio di come fa il nucleo di una cellula. Una cellula poi cosa fa? Produce, trasporta, ha degli scarti, insomma, tutte cose e tutti termini che alla fine noi siamo stati allenati a capire, imparare e controllare. Quindi, con questa idea un pochino in testa, cerchiamo di capire dov'è che un ingegnere può avere qualcosa da dire per cercare di portare dei miglioramenti a quelle che sono, ad esempio, i metodi standard che si usano nei laboratori di ricerca. Questa è una cosa che dico sempre. Quello che noi facciamo non vuole andare a sostituirsi a quelli che sono questi metodi standard. Questi rimarranno, esisteranno sempre e saranno sempre fondamentali. Quello che noi facciamo va ad aggiungersi, ad integrare, a verificare. Non è assolutamente un out-out. Sono due cose che possono, anzi che devono andare di pari passo e aiutarsi. Quindi, come funziona? È chiaro, ci saranno probabilmente qui degli esperti, sia dell'uno che dell'altro ambito. Quindi chiedo scusa a loro per l'oversemplificazione, ma mi fa piacere cercare di far capire trasversalmente di nuovo a tutti che cosa ci possa essere dietro a queste immagini che vedete. Quindi tipicamente in un laboratorio che fa colture cellulari, che cosa si fa? Si prendono dei contenitori di plastica o vetro, che si chiamano piastre Petri. All'interno di queste piastre vengono fatte crescere, quindi si dice seminate, proprio come anche in agricoltura, queste cellule. Queste cellule, se in grado di aderire, si attaccano al fondo di questa piastra, ricordo, di plastica o di vetro. Quindi per metà della loro superficie sono attaccate, il resto rimane sommerso in un brodino di coltura, questo mezzo di coltura, che contiene tutti i nutrienti che a loro necessitano e servono per la corretta sopravvivenza e funzionalità. Bene, cosa può fare l'operatore, il tecnico, il biologo che sta cercando di fare degli studi su queste cellule? Beh, può intervenire con degli strumenti come questi, delle pipette, quindi può aggiungere, togliere qualche sostanza, sono queste delle cellule tumorali dove voglio testare l'efficacia di un farmaco chemoterapico? Bene, prendo questa mia pipetta e lo aggiungo. Nulla di più distante da quello che succede nel nostro corpo. Nel nostro corpo le cellule non sono di certo adese né a un pezzo di plastica né a un pezzo di vetro. Non vedono un ambiente in due dimensioni, non sono un cartone animato piatto dell'epoca precedente, ma vedono intorno a loro tutta una serie di fenomeni che all'interno di una piastrina come quella che avete visto prima sono impossibili da replicare. Non c'è la struttura tridimensionale, non c'è l'impalcatura che sostiene queste cellule. Non ci sono le interazioni tra cellule di tipo diverso, non ci sono i neuroni che portano i segnali, le informazioni e così via. E non c'è tutta questa serie di queste palline che vedete, sono tutti dei messaggeri che le nostre cellule possono liberare, secernere, e che servono a mantenere il corretto funzionamento di tessuti e così via. Quindi, cosa si può fare per colmare un pochino questo punto di domanda, per passare dalle colture standard a un qualcosa che assomigli di più a quello che succede all'interno del nostro corpo? Beh, questa è un po' una battutina che metto sempre dentro, tranquilli, ci pensa l'ingegnere, gli ingegneri risolvono tutti i problemi, però in realtà qualcosina possiamo fare. Ma perché tutto questo, soprattutto in questi ultimi anni, sta iniziando ad avere una maggiore importanza e ad essere un tema, non dico di frontiera, ma comunque un tema estremamente importante? Perché lo sappiamo adesso, al giorno d'oggi, fortunatamente si vive in media più a lungo. Questo dipinto di Carnac è quello della Fonte della Giovinezza. Quindi qui abbiamo una popolazione anziana, malata, acciaccata, che entra in questa fonte magica, miracolosa, e ne esce ringiovanito. Quindi, come nell'utopia, diciamo, di questo dipinto, noi sappiamo che possiamo, mediamente riusciamo a vivere più a lungo, però è chiaro che vogliamo vivere bene gli anni che ci vengono dati. E per fare questo a volte c'è necessità di un intervento esterno. Dobbiamo cercare di riuscire a riparare quello che il nostro corpo non riesce a riparare da solo o a rimediare ad alcuni dei problemi che possono insorgere. La cosa più importante, secondo me, è che questo approccio deve seguire quello che il nostro essere e la natura già ci dicono. Cioè, questa è una frase di Leonardo, come vedete ho un po' di passione per Leonardo da Vinci, dice, la leggo proprio, che l'ingegno umano non riuscirà mai a ricreare un'invenzione, quindi a trovare un'invenzione più bella, più precisa e più breve, sintetica, scarna, senza troppi fronzoli, di quello che già ha fatto la natura, dove nulla manca e nulla è superfluo. Il nostro corpo già fa tutto quello che gli serve. Quindi se noi vogliamo andare a cercare di colmare questo punto di domanda, quindi riparare quello che non funziona, sostituire dei pezzi, lo dobbiamo fare seguendo gli insegnamenti che già la natura ci dà. Non dobbiamo noi inventare qualcosa, quindi dobbiamo cercare di copiare con tutte le tecnologie, le possibilità che ci vengono date, quello che già la natura ci insegna a fare. E questo ingegnere dove fitta, dove entra, cosa fa? La prima cosa forse che un ingegnere fa, al di là del rispondere appunto a tutte le domande come, quanto, perché, dove, vede che in tutto quello che riguarda i fenomeni che succedono all'interno del nostro corpo affrontiamo e vediamo una molteplicità di scale, dimensioni, quantità. Qui vedete, quelle che ho rappresentato sono una scala della lunghezza, questa sopra, e questa sotto una scala dei tempi. Allora, vedete che andiamo dai micron, quindi frazioni di millimetro, per le lunghezze, e sotto per il tempo in millisecondi, un millesimo di secondo, fino a millimetri, centimetri, metri, e ore, giorni. Tutti i fenomeni che accadono continuamente all'interno del nostro corpo coprono tutte queste scale. Quindi gli ordini di grandezza qui sono tanti, e se uno vuole riuscire a studiare, ad esempio, come riesco a far sì che le cellule all'interno del mio corpo continuino a crescere nella maniera corretta, non troppo, non troppo poco. Questi sono processi che coinvolgono dinamiche che vanno nelle frazioni di secondo fino a giorni, settimane, mesi. L'ingegnere è allenato a pensare a questo tipo di fenomeni. Quindi non sono fenomeni che uno studia all'interno di una piccola piastrina con questa istantanea nel tempo, ma riesce a seguirli e a modellarli anche considerando tutte queste scale diverse. Che armi ha l'ingegnere a disposizione? L'ingegnere come arma principale ha la tecnologia, al di là appunto delle conoscenze magari più teoriche che ci sono dietro. E la prima soluzione tecnologica, diciamo, che un ingegnere può portare all'interno di questo ambito è quella del bioreattore. Quindi che cos'è un bioreattore? Un bioreattore è uno strumento, un macchinario, un apparecchio. È un'apparecchiatura che noi possiamo progettare e realizzare e che fa che cosa? Cerca di automatizzare, diciamo, quello che avevamo visto prima in quella piastrina Petri, cercando di renderlo, come vi dicevo prima, un pochino più simile a quello che succede nel nostro corpo. Quindi quelli che vedete qui sono solo alcuni esempi di bioreattori, alcuni sviluppati, questo qui vecchissimo mentre io ero forse in tesi o in dottorato comunque, e altri presi da altri gruppi di ricerca. Quello che vedete, questi bioreattori, cosa vedete? Un sacco di tubicini e di strumenti. Che cosa fanno questi tubicini? Cercano, ad esempio, di aggiungere a quella che prima vedevate come una piastrina dove l'operatore poteva cambiare meccanicamente qualche condizione, qui automatizziamo. Qui possiamo avere, ad esempio, una costante perfusione di fluidi all'interno del nostro sistema, cosa che va a mimare quello che succede nel nostro corpo, con vene, arterie, capillari. Quindi io riesco, ad esempio, a fornire alle mie cellule in coltura quello che gli serve, o dei farmaci che io gli voglio dare in una maniera estremamente controllata, monitorata e così via. I bioreattori cosa possono fare? Anche possono dare stimoli di tipo meccanico. Pensate ad esempio alle nostre ossa, ma alla circolazione stessa. Il solo camminare crea una pressione che stimola le nostre cellule, i nostri tessuti. Pensate al cuore. Il cuore per contrarsi di cosa ha bisogno? Di stimoli elettrici. Una piastra Petri non ce li ha, un bioreattore ce li può avere. E ci posso mettere degli elettrodi che posso controllare perfettamente dall'esterno. Dal punto di vista, e non vi voglio annoiare con cose proprio pesantemente ingegneristiche, come vediamo noi un bioreattore? Per noi un bioreattore è appunto un dispositivo che può lavorare, come vedete qui, allo stato stazionario. Adesso ve li spiego un attimo entrambi. Allora, la piastrina che avete visto prima, qui ha la forma di una scatola, non ci interessa bene la forma. Sappiamo solo che qui al fondo abbiamo le nostre cellule, che crescono, consumano qualcosa dal loro brodino di coltura, rilasciano delle altre molecole, vivono, fanno quello che devono fare. In questo sistema io che cosa conosco? Io conosco esattamente come stanno le cose all'inizio dell'esperimento, perché le decido io. Decido quante cellule metto, decido cosa gli do da mangiare, detta in termini proprio tecnici, no, molto poco tecnici. Quindi quello che noi chiamiamo un reattore batch può essere perfettamente caratterizzato solo all'inizio. Nel momento in cui io poi chiudo la mia piastrina e la metto in incubatore, quello che succede è molto scarsamente predicibile. Perché? Perché le cinetiche, le dinamiche che coinvolgono tutti questi processi sono molto variabili, quindi qualsiasi cosa io voglia misurare, M può essere qualsiasi cosa, la quantità di un, ad esempio di un farmaco che io do, potrebbe essere quante cellule muoiono se io, se sono cellule di tumore, se io fornisco un determinato farmaco chemoterapico. Bene, io non lo so, queste sono funzioni del tempo, io faccio molta fatica a predirle. Nel momento in cui io invece questa coltura la faccio in un bioreattore e lo faccio lavorare in quello che è il nostro preferito, lo stato stazionario, quindi uno stato in cui io riesco a controllare dall'esterno le proprietà e so che quello che io voglio misurare, ad esempio la concentrazione del farmaco chemoterapico che io do, è costante nel tempo. Io so che voglio dare 10, io do 10 costantemente. Quindi qualsiasi cosa io poi vado a misurare nelle mie cellule sarà legata solamente a questa nota concentrazione e non una commistione di altri fattori che io posso conoscere in maniera molto poco precisa. Dietro a questo che io ho detto in maniera estremamente semplice, è chiaro che ci sono tutta un'infinità di calcoli, equazioni, cose del genere, ed è per questo che ci troviamo costretti, fra virgolette, a studiare analisi 1, analisi 2, fisica 1, fisica 2, calcolo, chi più ne ha più ne metta, perché alla fine servono. Dietro a tutto questo c'è carne sul fuoco, insomma, serve che uno si formi appunto con una formazione di tipo ingegneristico. Però nulla di spaventoso, insomma, ce la si può fare tranquillamente. Ma diciamo che se nella prima parte della mia carriera, anche quando ero una studentessa, insomma, si è dedicata allo sviluppo di bioreattori relativamente grandi, come quelli che avete visto prima, la mia passione maggiore, soprattutto in tutti questi anni che ho fatto anche all'estero, sono i micro bioreattori. Quindi quello che mi piace è scendere in quella scala che avete visto prima, quindi dal macro passare al micro. Quindi quelli che vedete qui sono tutti esempi di microbioreattori che sono stati fatti nei laboratori nei quali io lavoravo come ricercatrice, oppure stiamo progettando e realizzando nei miei laboratori adesso. Non sono poi così diversi come principi da quelli che abbiamo visto prima, ma sono più piccoli. E perché? Dov'è il vantaggio di scendere, di creare delle cose così piccole che, diciamo che di primo acchito possono sembrare solo più complicate? Perché in realtà nel momento in cui passiamo dal macro al micro ci avviciniamo a quelle che sono le dimensioni vere delle cellule dei tessuti. E anche se anche questi due, soprattutto il secondo e l'ultimo punto, sembrano controintuitivi, nel momento in cui passiamo al micro tutte quelle mostri di equazione che abbiamo visto si semplificano. Tutto diventa più facile anche da controllare, da modellare e da prevedere. E vi penso di averlo messo, comunque adesso lo vediamo. Vediamo solo un piccolo esempio dopo di un fenomeno che ci consente effettivamente sia di semplificare i modelli matematici che di controllare molto meglio tutti questi parametri. Ma questi microbioreattori, che sembrano insomma una cosa fantascientifica, in realtà non lo sono, perché sono dei dispositivi come i macro bioreattori che abbiamo visto prima, che noi ci realizziamo tranquillamente in laboratorio, perché le tecniche di fabbricazione che previste per fabbricare appunto questo tipo di dispositivi non sono per niente irraggiungibili, non hanno bisogno, è chiaro che hanno bisogno di persone in grado di farle e con un minimo di training e specializzazione, ma insomma con dell'attrezzatura che può essere disponibile in un laboratorio di ricerca possono essere fatti. Soprattutto la fotolitografia, qui vedete alcuni stampi di questi microbioreattori, è una tecnica che, anzi non deriva, è la stessa che viene utilizzata per la fabbricazione dei microchip per il computer, e molto molto simile anche a quella dello sviluppo delle lastre fotografiche. Adesso ormai tutto è digitale, telefonini, camere, eccetera, ma per chi magari è appassionato di fotografia, lo sviluppo di un film, proprio di una pellicola fotografica, ha molto in comune con i processi appunto per la realizzazione di questi dispositivi. Ma il messaggio principale è che hanno, e per un ricercatore questa è una cosa fantastica, una flessibilità e un tempo di risposta rapidissimo. Esempio, prendiamo questo che è il più proprio semplice lineare di tutti. Bene, qui cosa abbiamo? Abbiamo 5 canalini, 2 batterie da 5 canalini, con cui si possono fare tutta una serie di studi, vabbè, non li vedremo in dettaglio. Bene, allora il ricercatore dice, bene, voglio 5 canalini, li voglio larghi 1 mm e lunghi 3 cm. Li prova, li fabbrica. Come li fabbrica? Intanto li disegna. Prima si disegnano su carta, così per avere un'idea, poi viene fatto un design con software tipo AutoCAD, insomma di programmazione al computer, poi viene stampata una fotomaschera, proprio come una pellicola fotografica, si va in camera bianca e si fabbrica uno stampo come questo. Tempo totale, senza inghippi di copisterie e cose del genere, 3-4 giorni. Quindi dall'idea alla realizzazione del pezzo, facciamo una settimana, dall'idea alla realizzazione del pezzo passa una settimana. Pezzo realizzato, facciamo l'esperimento, no, non funziona, lo voglio lungo 2 cm e largo 0,5 mm. Benissimo, nel giro di un'altra settimana si rifà un nuovo design, una nuova fotomaschera e il pezzo è pronto per essere usato. Quindi questo consente al ricercatore di avere sia una libertà di espressione che una flessibilità proprio nel progettare e nel decidere i propri esperimenti. Ma di nuovo, e qui abbiamo un pochino l'ultimo pezzettino, un po' più hardcore ingegneristico. Come vi dicevo, perché tutti questi fenomeni che noi abbiamo studiato sui nostri libroni pensando non servano a niente o a poco possono in realtà avere una ricaduta anche su questo tipo di fenomeni? Perché all'interno del nostro corpo tutto si sposta e tutto si muove seguendo le leggi che noi abbiamo studiato per qualsiasi fenomeno di trasporto. La diffusione è il movimento molecolare guidato da un gradiente di concentrazione in un reattore, in un'industria chimica, così come nel nostro corpo. Le nostre cellule ricevono dei segnali perché gli arrivano per diffusione. Gli arrivano anche per convezione, perché nel nostro corpo c'è il sangue, c'è il plasma, sono delle cose che fluiscono, scorrono, questa è la convezione, e portano queste sostanze dove devono arrivare. Poi vabbè, il trasporto attivo è un pochino più complicato, insomma nelle membrane di tutte le nostre cellule ci sono delle pompe attive che con consumo di energia sotto forma di ATP riescono a portare dentro o buttare fuori delle molecole. Però tutte queste cose noi le possiamo studiare e soprattutto possiamo capire alcune cose che magari senza questo pezzettino, questo tassello di studio un pochino più teorico magari ci manca. Esempio, all'interno del nostro corpo come fa una molecola? Queste distanze e tempi calcolati che vedete riguardano una molecola di ossigeno, quindi una molecola piccolissima, quindi che insomma, nel pensiero diciamo collettivo, essendo piccola, si dovrebbe spostare facilmente. Però pensate che se una molecola di ossigeno dovesse viaggiare per 1 metro, e 1 metro insomma nel nostro corpo va dalla testa al ginocchio, insomma poi dipende da quanto alti siete, per la sola diffusione ci impiegherebbe 31 anni, quasi 32 anni. Potete capire che è assolutamente impossibile. Quindi tutte queste cose noi dobbiamo essere in grado di quantificarle, calcolarle e considerarle. Perché se vogliamo mimare come una molecola di ossigeno viaggia, ad esempio nel nostro corpo, dalla testa al ginocchio, di certo non lo possiamo fare in una piastrina dove aspettiamo 32 anni. Ok? Quindi grazie allo studio di questi fenomeni noi riusciamo ad interpretare e a replicare molto meglio quello che effettivamente succede nel nostro corpo. Questa è l'ultima, scusate. Questo è un esempio che uso spesso per far capire due concetti che sono estremamente semplici, insomma spero di riuscire a farlo capire a tutti, ma estremamente importanti. All'interno di un micro bioreattore, quindi una cosa piccola, che prima vi ho venduto come una cosa che è più controllabile, dove i modelli matematici si semplificano, che cosa succede? La prima cosa è che i flussi, quindi se io inietto qualcosa, così come succede nelle nostre vene capillari, io so che questi flussi sono laminari. Cosa vuol dire? Un flusso laminare è un flusso molto ordinato. È un flusso nel quale se io inietto una molecola, una particella, una pallina gialla dentro al mio sistema, al tempo zero, io so esattamente dove, come e quando questa pallina si troverà all'interno del mio dispositivo, perché i flussi sono laminari, quindi ordinati. Al contrario, e questo non succede solitamente nei microbioreattori, se il moto è turbolento, pensate a quello quando aprite il rubinetto dell'acqua, io questa previsione non la posso fare con questa precisione, perché la mia pallina gialla può andare ovunque, può trovarsi ovunque e faccio fatica a prevederla. Quello che io uso anche di solito come metafora, non so adesso se è giusto, dovrebbe essere una metafora, per far capire questo discorso, sono un'analogia con ad esempio una parata militare, dove, non so, ci sono i bersaglieri con il cappello e la piuma, ce n'è uno che ha una piuma di un colore diverso. Io sto osservando la parata che avanza davanti a me, vedo uno con una penna gialla, anziché non mi ricordo che colore siano. Bene, se io so che questi sono dei bersaglieri che stanno continuando a marciare a ritmo perfettamente sincronizzato, io chiudo gli occhi, mi faccio un attimo un calcolo, se dopo 5 secondi apro gli occhi so esattamente più o meno dove questo con la penna gialla si troverà. Il moto turbolento non è assolutamente così, e l'analogia che uso di solito è, visto che adesso è stata importata anche qui in Italia, Black Friday, quindi il negozio più gettonato del paese che sta per aprire le porte. Io vado con 3 dei miei amici, siamo tutti vestiti, io in giallo fluorescente, un altro in rosso e l'altro in verde, aprono le porte e li perdo, perché è un moto completamente caotico, io dove loro siano non lo posso prevedere. Quindi, trasferendo tutte queste osservazioni in un sistema biologico, capiamo come le armi, di nuovo, le buone armi a nostra disposizione, siano effettivamente moltissime. Quindi, vabbè, qui riassumiamo, riusciamo a controllare benissimo tutte le componenti che trasportano le cose all'interno del nostro sistema, convezione, diffusione e così via. Quello che ho detto qui sotto, che quindi il mescolamento avviene solo per diffusione, al di là della magari complicazione di questo concetto, la cosa fondamentale è che grazie a dispositivi di questo genere noi riusciamo ad esempio a generare dei gradienti di concentrazione. Cos'è un gradiente di concentrazione? Un gradiente di concentrazione è quello che possiamo percepire, ad esempio se io seduta qui, non so, spacco a terra una bottiglietta di profumo. Io qui vicino sentirò immediatamente un profumo fortissimo perché io sono vicino alla sorgente. Chi è seduto in prima fila sentirà un profumo o un odore, a seconda se vi piace o non piace, molto forte entro un certo tempo, e poi mano a mano che le file, insomma, vanno più indietro, questo profumo si sentirà dopo e in intensità più lieve. Questo è un gradiente di concentrazione, quindi dal tanto al poco, guidato da una differenza di concentrazione. All'interno del nostro corpo i segnali funzionano tutti così. C'è una sorgente che rilascia qualsiasi cosa voi potete pensare, una molecola, un segnale, qualsiasi cosa. Le cellule vicine, che vedete qui, sentiranno e percepiranno tanto di questo segnale, quelle più lontane ne sentiranno meno. Questo non vuol dire che il segnale tanto vada bene e il poco vada male. Ognuno ha una propria funzione. Questa cellula ha bisogno di questa quantità per fare quello che deve fare. In una piastra Petri non si può fare una cosa del genere, è impossibile. L'unico modo per farlo è usare la tecnologia. Quindi qui diciamo che è nata la mia passione per questo tipo di studi, e ho capito come effettivamente, grazie anche allo studio di questi gradienti di concentrazione e all'uso di dispositivi di questo genere, ci potesse essere la possibilità di andare a colmare quelli che qui ho detto gap di conoscenza, qualche buco appunto in quello che noi conosciamo e sappiamo, scusate, ad esempio nella biologia dei tumori e nello specifico di questo tumore pediatrico che è il neuroblastoma, che ha una forte tendenza a formare metastasi, ma questo magari ve lo spiego nelle prossime diapositive. Però le domande che noi ci poniamo, quello che vi dicevo prima, come, quanto, quando, possiamo riuscire a creare della tecnologia che ci aiuti a rispondere a queste domande. Questa è una, chiaramente tradotta, delle diapositive che mi sono servite per vincere appunto quel finanziamento di cui abbiamo parlato prima, che è appunto della comunità europea. Quindi che cosa ho proposto io di studiare? Appunto il neuroblastoma, come vi dicevo prima, che è un tumore pediatrico, purtroppo ancora con una prognosi... Ho scritto in Fausta, insomma, purtroppo ancora tutt'oggi molti bambini affetti da neuroblastoma non arrivano all'età adulta. E il problema principale è che questi tumori formano tantissime metastasi. Il paziente non muore a causa del tumore primario, ma muore a causa delle metastasi che questo tumore forma e crea all'interno del corpicino. Un'altra evidenza dalla quale sono partita è appunto, abbiamo parlato un sacco di segnali, eccetera. Tutte le nostre cellule, sane o malate, rilasciano dei segnali sotto forma, ad esempio, di vescicole, proprio come dei pacchettini, delle buste, dei messaggeri, che contengono tutta una serie di informazioni. Ripeto, sia nelle cellule sane che malate. Quindi queste vescicole, che sono tanto, tanto legate al microambiente, vi ricordate quella diapositiva iniziale dove c'erano tutte, era sempre un disegno in cui c'erano tante diverse cellule con tutte quelle bollicine disegnate? Ecco, quelle sono dei messaggeri. E le proprietà dell'ambiente, quindi non della piastrina, okay, all'interno del nostro corpo, condizionano che cosa le cellule mettono dentro questi pacchettini di informazione. Quindi è chiaro che un tumore mette delle informazioni all'interno che portano alla sua sopravvivenza. Okay? E quindi vogliamo capire se il cercare di affrontare questi problemi dal punto di vista ingegneristico ci può portare a colmare alcuni di questi vuoti, e questo è quello che ci proponiamo appunto di fare, quindi progettando dei dispositivi che riescano a rispondere ad alcune di queste domande che ancora non delle quali non conosciamo la risposta. Brevissimamente, queste vescicole che vi dicevo, questa è una cellula, possono essere chiamate esosomi, ma insomma hanno diverse una nomenclatura molto particolare, però insomma le cellule inseriscono all'interno di queste bollicine tutta una serie di informazioni che riescono a viaggiare tranquillamente nel nostro corpo e andare a portare queste informazioni, ad esempio, alle cellule del sito dove il mio tumore va a fare la metastasi. Quindi queste vescicole partono dal mio tumore, viaggiano, arrivano in questo sito di metastasi e cominciano a predisporlo per accogliere chi? La cellula che si stacca dal tumore primario e va a colonizzare e a formare la metastasi. Quindi riusciamo a capire qualcosa di più di questi fenomeni? Come lo facciamo? La prima cosa che abbiamo fatto è quella, ad esempio, di sviluppare un dispositivo che potesse generare questi gradienti di concentrazione che vi dicevo prima. Perché gradienti? Perché vogliamo copiare quello che fa il nostro corpo. Il tumore è la sorgente, vogliamo vedere quanto concentrazioni diverse di queste sostanze vadano ad influire e influenzare le cellule, ad esempio, target, quelle dove andrà formata la metastasi. E qui vedete un pochino il processo che vi ho descritto prima, quindi si parte dall'idea, da quello che io voglio ottenere, e poi lo andiamo a disegnare, questo è un diagramma a blocchi, poi lo andiamo effettivamente a progettare. Bene, questi, come questi pezzi di puzzle, pezzi di Lego, quello che volete, io so che ho bisogno di una sorgente, so che ho bisogno di un pozzo, perché voglio tanto e poco. Controllando bene tutti i fenomeni di trasporto nel mio dispositivo, riesco, ad esempio in questo caso specifico, a disaccoppiare convezione, quindi il flusso, okay, quindi le vene, il sangue, dalla diffusione. E li riesco a controllare. Li riesco a controllare perché? Perché voglio che dove io metto le mie cellule ci sia un gradiente di concentrazione. Quello che vedete qui in colori, potete pensare come, ad esempio, il rosso è tanto e il blu è poco. Quindi io all'interno del mio dispositivo riesco a fare uno screening di tutte queste condizioni allo stesso tempo, proprio come avviene nel nostro corpo. Di nuovo, anche qui ce lo fabbrichiamo in casa, in laboratorio, utilizzando le tecniche che abbiamo a disposizione. Queste, vedete, sono un pochino diverse da quelle di prima, ma questa insomma è una fresa che normalmente in dipartimento veniva usata per fare proprio componenti meccanici, valvole, bulloni, pistoni, eccetera. Abbiamo detto, beh, facciamoci un microbioreattore ed è funzionato. Quindi creiamo questi stampi, sui quali poi coliamo dei polimeri, insomma le tecniche sono standard, non sono complicate, ma insomma si fanno, e da qui, proprio come gli stampini anche dei bambini, creiamo tutte le repliche del nostro dispositivo che poi possiamo utilizzare. E anche qui, beh, noi crediamo a quello che ci dicono i computer, quindi quello che vedevate prima con i colori, questa qui è una simulazione matematica fatta al computer, però abbiamo capito, i computer per l'amor di Dio ci servono, ma non sono dotati di intelligenza propria, quindi ci si fida fin là. E quindi vanno fatte delle validazioni, quelle che noi chiamiamo validazioni, quindi delle prove sperimentali effettivamente in laboratorio. In questo caso quello che vedete è il pezzo centrale di questo nostro dispositivo. Se dalla sorgente facciamo fluire una sostanza fluorescente, solo per vederla, per verificarlo, oppure colorata, e dall'altra parte mettiamo semplicemente acqua, vediamo che effettivamente qui il nostro gradiente di concentrazione si forma. Qui vediamo che abbiamo tanto, il colore piano piano sbiadisce fino al nero completo dalla parte dove non c'è. Stessa cosa con dei coloranti. Ovviamente, adesso non so quanto riusciate a vedere, ma tutti questi piccoli puntini, purtroppo il blu non si vede, sono delle cellule. Quindi, provato, allora il computer ci dice cosa succede, i coloranti ci dicono che effettivamente funziona, proviamo effettivamente se con le cellule questa cosa funziona. Quindi questo è un altro esperimento di validazione nel quale abbiamo effettivamente visto che queste cellule mangiano, digeriscono questo colorante in una maniera che è effettivamente corrispondente alla quantità, a questo gradiente che io gli impongo di avere. Nello specifico avevamo fatto da sinistra a destra questo verde, da destra a sinistra il blu, però si vede poco. Ma cosa succede alle cellule di tumore, l'esperimento vero, o alle cellule dove il mio tumore va a fare metastasi, se io le espongo a gradienti di concentrazione di quei pacchetti di informazione? Quindi io prendo le vescicole liberate dal tumore e le do in pasto a delle cellule, in questo caso sono di midollo osseo, perché un sito principale dove il neuroblastoma va a fare metastasi è proprio il midollo osseo. Quindi qui vediamo, non vi sto a spiegare che cos'è, però vedete questo segnale verde? Queste sono cellule dove noi abbiamo fatto queste colorazioni dentro a quel dispositivo. Noi vediamo che questa colorazione verde, che se volete è un segnale di spinta verso la proliferazione, quindi queste cellule sono spinte a moltiplicarsi di più uguale tumore, ok? Quindi quando io gli do tanta di questa informazione, loro sono spinte a dividersi di più, medio, basso, e vedete che l'intensità è corrispondente. Stessa cosa qui sulle cellule di tumore stesso, quindi questo è effetto di neuroblastoma sul neuroblastoma, e quello che vedete è che il verde va da tanto, medio, poco. Quindi questa, diciamo, è la stessa risposta. È chiaro che qui adesso stiamo andando avanti con tutta una serie di studi, chi più ne ha più ne metta. Ma un altro, e questo è molto carino, vi ho detto che queste vescicole, ad esempio, spingono le cellule di tumore a proliferare, a raddoppiare molto più velocemente. Un'altra cosa che fanno è spingerle a muoversi di più. E anche il movimento è un fenomeno chiave nella formazione della metastasi, perché una cellula deve prendere e viaggiare all'interno del nostro corpo. Quindi, ad esempio, con questa nuova tecnica, che è un pochino più complicata rispetto a quelle che avete visto prima, polimerizzazione a due fotoni, noi riusciamo a disegnare, a studiare dei dispositivi che ci consentano di studiare come queste cellule si muovono nel tempo e nello spazio. Nello specifico, vedete, questo è proprio piccino. Quando vi dico che questi dispositivi, nel momento in cui andiamo sul micron, diventano più facili da controllare, eccetera, questo qui è proprio piccino e ci vuole un po' di impegno per farlo funzionare bene. Quindi Elisa, che è la laureanda e borsista che ci ha lavorato, non Elisa, io, un'altra Elisa, insomma, ci ha perso e investito parecchio tempo, però insomma, nel momento in cui poi si riesce a farlo funzionare, le soddisfazioni arrivano. Comunque, il cuore di questo dispositivo, ad esempio, sono questi piccolissimi canalini, i numeri che vedete qui, cioè 28, 12, questi sono micron, questo è veramente molto molto piccolo. E perché sono disegnati così? Perché vogliono mimare un pochino i canali linfatici, che sono quelli attraverso cui le cellule, per arrivare dove loro andranno a fare metastasi, devono attraversare. Bene, che cosa ci facciamo con questo dispositivo? Vediamo come migrano queste cellule. Esempio, MSC sta per cellule mesenchimali, okay? Quindi delle staminali derivate dal midollo osseo. Bene, le mettiamo nel nostro dispositivo solo da un lato. Vedete, queste qui sono le cellule, ne servono poche, che noi mettiamo nel nostro dispositivo, di qua non mettiamo niente. E le lasciamo lì. Le abbiamo anche colorate in modo da riuscire a vederle meglio, anche per poi farci analisi al microscopio, eccetera. E vediamo che dopo 72 ore queste sì si sono un po' allargate, attaccate benino, ma non si sono mosse. Cosa succede se affianchiamo neuroblastoma, questa è una sigla per cellule di neuroblastoma, alle stesse di prima? Beh, vediamo che qui le cose cominciano a cambiare. Vediamo se questo funziona. Vedete in verde? Questo nel corso di 45 ore, vedete come queste cellule in realtà si spostano. Quindi la sola presenza delle cellule di tumore induce in queste cellule di metastasi, tra virgolette, un aumento di movimento, cosa che prima non avevamo visto. Cosa succede poi invece se noi queste famose vescicole di cui ho parlato le diamo in pasto alle nostre cellule del sito della metastasi? Diciamo, è come se le avessimo dopate. Okay, quindi prendiamo questi messaggeri che sappiamo dovrebbero spingerle a muoversi di più e vediamo cosa succede mettendole da sole, come prima, e non si muovevano. Se prima gli diamo per 12 ore queste vescicole di neuroblastoma, vediamo come loro in realtà si muovono ancor più che quando sono esposte al tumore stesso. Ed è chiaro che qui, all'interno di questi studi, si aprono un ventaglio di esperimenti possibili incredibili. Riusciamo a capire quanto di queste informazioni è necessario per indurre questo movimento, ad esempio. E perché lo facciamo? Perché se riusciamo a capire un meccanismo chiave, poi potenzialmente lo possiamo bloccare, bloccando o impedendo o rallentando appunto il processo di metastasi. Passo un attimo di argomento, perché insomma già sono passati 40 minuti, non vi voglio annoiare troppissimo. Un'altra cosa che stiamo facendo in laboratorio è sempre legata, insomma, gli argomenti sono sempre tutti legati dal filo conduttore, diciamo, che vi ho detto prima, è quello di cercare di copiare quello che succede nel nostro corpo. Il nostro corpo non è una piastra Petri, non è un pezzo di plastica, non è un pezzo di vetro. Nel nostro corpo tutto è tridimensionale. Già nei nostri piccoli microbioreattori c'è uno sforzo verso la tridimensionalità, ma con la stampa 3D, che è quello che vedete qui, anzi facciamo partire così, vediamo. Non vai? Ecco. Questa è una stampante 3D che abbiamo nel laboratorio. Noi riusciamo a creare dei costrutti, dei pezzetti appunto tridimensionali, nei quali possiamo mettere insieme diversi tipi di cellule, così come succede nel nostro corpo. Pensate ad esempio al tumore. Quindi c'è il pezzo di tumore e poi che cos'ha il tumore? Ha dei vasi, ha delle vene, dei capillari, delle cose che portano nutrimento ed è circondato da altri tipi cellulari. Quindi anche qui c'è tutta una fase di progettazione che dice ad esempio, bene, abbiamo questo primo strato dove abbiamo il tumore, adesso ci andiamo a disegnare della vascolatura, un vaso, dove noi facciamo poi fluire tutto quello che ci serve, possono essere dei farmaci, dei nutrienti e così via, sempre con questo sforzo di cercare di andare il più vicini possibile a quello che succede nel nostro corpo. Anche qui ovviamente qual è il potere di queste tecniche? Di nuovo la versatilità, la flessibilità. Ci viene in mente qualcosa? Lo possiamo fare. Lo disegniamo su carta, lo progettiamo al computer e lo diamo in pasto alla macchina che ce lo crea. Vogliamo un singolo capillare, vogliamo una serpentina, vogliamo due aree comunicanti perché vogliamo qui vedere il neuroblastoma e qui la metastasi. Virtualmente possiamo fare tutto. E di nuovo possiamo abbinarci i bioreattori perché vogliamo poter controllare, vogliamo automatizzare, vogliamo riuscire a far fare al nostro sistema quello che farebbe il nostro corpo. Alcuni dei risultati più belli, anche qui insomma ci sono delle persone in laboratorio che ci stanno lavorando da anni, Lorenzo, Federico, soprattutto a questa parte. Qui vedete, questa è la serpentina di prima. È la serpentina di prima che noi siamo riusciti a ricoprire con cellule endoteliali, si chiamano, cioè quelle che effettivamente rivestono i nostri capillari. Perché è fondamentale questa cosa? Perché se noi ad esempio in queste parti nere che vedete, che sono comunque tridimensionali parti di quel pezzettino, ci mettiamo le cellule di tumore, grazie all'esistenza di questi vasi che sono veramente simili a quelli che ci sono nel nostro corpo, noi potenzialmente possiamo riuscire a vedere il momento in cui una di queste cellule riesce a passare attraverso, entrare nel flusso sanguigno e viaggiare. Quindi queste sono delle cose fondamentali. Ovviamente, vabbè, anche qui si controlla che tutto funzioni bene nel momento in cui ho, questa è una sezione verticale di quella serpentina, quindi quelli che vedete qui sono i canali bucati, tutte queste che vedete sono le cellule di tumore. Verde significa vivo, rosso significa morto. Quindi in questo pezzo tridimensionale, vedete, questo è un millimetro, quindi è grande, cioè non dico che sia un tessuto vero e proprio, però comincia ad avvicinarsi un pochino a quella che è la complessità e la scala di un tessuto all'interno del nostro corpo. Nel momento in cui noi lo coltiviamo facendo perfondere, passare il fluido attraverso tutta questa rete di canalini, vediamo che effettivamente queste cellule stanno bene, crescono, proliferano, fanno quello che dovrebbero fare normalmente. Anche questo appunto ci apre tutta una serie di possibilità nello studio. Quindi questo è un pochino quello che abbiamo visto, però proprio nel titolo della mia presentazione c'era anche la medicina nel futuro, no? Quindi siamo passati da quelle che erano i primissimi studi sul corpo umano, antichi, nel 1400 anche prima, dove tutto quello che riguardava anche il corpo erano le prime scoperte, nemmeno si sapeva che ci fosse il cuore che pompava il sangue all'interno di tutto il nostro organismo, okay? Quindi il corpo umano veniva visto come un qualcosa di misterioso e magico. Si è iniziato a comprendere un pochino di più e si è arrivati a un punto in cui queste due che vedete, sono queste, le uso spessissimo nelle presentazioni, sono due copertine del Time Magazine pubblicate a distanza di soli 10 anni una dall'altra. E che cosa ci dicono? Ci dicono che fine anni 80, come veniva visto l'approccio alle riparazioni e alla sostituzione di pezzi rotti o difettosi nel nostro corpo con la robotica, l'automazione, quindi pezzi di metallo, pezzi di computer, bene, l'innovazione tecnologica, il progresso era visto solo come robotica, automazione. Boh. Quindi questo è il futuro alla fine degli anni 80, quindi robotica, automazione. Solo 10 anni dopo si è invece iniziato a pensare a quella frase che aveva detto sempre il nostro Leonardo. Quindi no, piano, cerchiamo di approcciare il problema delle riparazioni e delle sostituzioni in maniera un pochino più organica, naturale. Quindi cerchiamo di fare o copiare quello che il nostro corpo farebbe da solo se ne fosse in grado. Però ogni tanto non ce la fa da solo. Okay? Quindi qui cosa avevamo? Corpo 1.0, 2.0, 3.0, adesso possiamo arrivare al 4.0? Sì. E quello che poteva essere appunto il futuro, nel caso ad esempio di questa azienda che avete sentito nominare prima, è diventato il presente. Questo ne parlavamo anche a cena. Questa azienda è nata nel 2012, ma arriva, il giorno della sua fondazione, è arrivato dopo oltre 10 anni, quasi 15, di ricerca di laboratorio. Quindi prima della fondazione di questa azienda ci sono state altre due, direi, generazioni di ricercatori che ci hanno lavorato. Quindi, da questo punto di vista i tempi della ricerca per arrivare alla scoperta sono lunghi. Nel momento in cui si arriva alla scoperta tutto accelera. Ed è il discorso che facevamo anche prima sui vaccini. Comunque, tornando qui, che cosa fa questa azienda? Fabbrica tessuto osseo, pezzi di ricambio per il nostro corpo che riguardano le ossa. Le materie prime sono un pochino quelle che avete sentito prima, il bioreattore è il cuore di tutto. Servono le cellule e serve un supporto, un qualcosa di tridimensionale, quello che noi chiamiamo scaffold. Gli ingredienti, qui scritti segreti, ma insomma che rendono questa tecnologia estremamente promettente e importante, è che le cellule da cui si parte sono quelle del paziente stesso. Sapete che nei trapianti uno dei problemi principali è il rigetto, perché il nostro corpo è perfettamente allenato a riconoscere qualsiasi cosa ci sia di estraneo. Se io vado a mettere nel mio corpo le cellule di qualcun altro, il mio corpo dice cos'è sta roba e le combatte. Ed è una reazione per quello che quando si fanno dei trapianti si cerca di trovare il matching più perfetto possibile di risposta immunitaria, ma il paziente viene anche immunosoppresso proprio per ridurre la possibilità e la forza, diciamo, di questo rigetto. Quindi questa già è un vantaggio, quindi le cellule sono le mie, le vostre. E un'altra cosa fondamentale è che la forma dell'osso che io vado a sostituire è proprio quella che mi serve. Il focus principale dell'azienda è quello di generare tessuto osseo per riparare difetti del volto e del cranio. Senza nascondere, per due motivi. Uno è perché è molto più facile capire il vantaggio della personalizzazione nel momento in cui parliamo di volto e cranio. Noi siamo tutti uguali, ma tutti estremamente diversi. Basta 1 o 2 millimetri in più in un osso per rendere la nostra fisionomia diversa. Quindi nel momento in cui io dico, bene, il tuo osso zigomatico che ti sei rotto cadendo o in un incidente o per un difetto genetico, io te lo rifaccio esattamente come l'altro. Quindi mantengo la tua fisionomia e la funzionalità. La seconda cosa che è un vantaggio più per l'azienda è che le ossa del volto e del cranio devono sopportare dei carichi molto minori. Pensate a un femore o a un osso di una caviglia, cioè ci camminiamo sopra e quindi diventa molto più difficile anche da fabbricare. Quindi ci sono questi due, diciamo, vantaggi. Il processo è relativamente semplice, quindi per arrivare a questa personalizzazione da che cosa si parte? Da un CT scan, quindi una TAC, una PET, insomma quello che è, dell'osso del paziente che deve essere ricreato. Ho parlato dell'osso zigomatico, supponiamo che uno purtroppo ha un incidente, una caduta, lasciamo perdere, insomma viene danneggiato un osso. Se questo osso è danneggiato troppo, quindi dall'acquisizione dell'immagine non lo riesco a ricostruire, si prende lo speculare e si ricrea l'immagine, quindi l'osso viene fatto proprio a propria immagine e somiglianza. Quindi quel supporto tridimensionale di cui vi parlavo viene sagomato esattamente a partire dalle immagini digitali ottenute dall'ospedale, grazie a tecnologia. Così come anche il bioreattore. Anche il bioreattore viene fatto su misura per ogni paziente. Poi vengono prese le cellule. Le cellule da dove vengono prese? Da una piccolissima liposuzione. Non è una liposuzione, cioè nessuno dimagrisce con questa procedura perché vengono prese proprio una piccola quantità di tessuto adiposo. Ma perché tessuto adiposo? Perché dal tessuto adiposo si possono isolare delle cellule staminali che possono diventare osso. All'interno del tessuto adiposo ci sono delle cellule che, se sottoposte ai giusti segnali, ad esempio col bioreattore, possono diventare osso, e questo è quello che si fa. Quindi si prendono queste cellule, si mettono in coltura, gli si comincia a dare i segnali, messe in questo scaffold tridimensionale, poi in coltura dentro il bioreattore per il tempo richiesto, e queste maturano e formano un pezzettino di osso. Questo che vedete è uno schema solamente del bioreattore, ma vediamo se questo funziona. È un filmato che non credo si senta l'audio, ma ci parlo sopra io, che descrive quello che vi ho appena detto. Allora, supponiamo ad esempio di dover riparare un difetto nel cranio. Quindi si parte, il difetto può essere appunto da un incidente o anche da un difetto genetico. Quello che l'azienda si propone di creare è un pezzettino che vada come un perfetto tassello di un puzzle a riparare questo danno. Come si fa? Quindi si fa una scansione e si crea lo scaffold, il supporto, e il bioreattore. Questa è la liposuzione, queste sono le cellule. Quindi si riescono a isolare le cellule staminali. Queste cellule staminali si replicano, sono le tue, le nostre cellule staminali, vengono poi messe all'interno del bioreattore e loro si comportano come dovrebbero, quindi si attaccano a questa impalcatura, continuano a moltiplicarsi e diventano tessuto osseo, perché quello che noi gli diamo sono i segnali giusti per far sì che loro si comportino da osteoblasti, osteoclasti, tutto quello che compone l'osso. A quel punto, nel momento in cui questo pezzettino è maturo, può essere preso e impiantato nel paziente, dove si integra senza problemi, perché le cellule sono le nostre, e non c'è alcuna o estremamente minima reazione avversa all'impianto. Ovviamente questa tecnologia io ve l'ho descritta solo per l'osso, ma ci sono all'interno dell'azienda tutte altre linee di ricerca, ancora appunto nella fase di ricerca, che cercano di sviluppare ad esempio cartilagine o osteocondral, quindi osso più cartilagine. Questi sono tutti prodotti che si stanno ancora studiando. Ma rispetto a anni fa, che cosa è successo? Siamo quasi all'anno in cui alcune delle nostre ossa sono state effettivamente impiantate nei pazienti. Quindi questo è quel famoso trial clinico che probabilmente avete sentito nominare molto spesso anche ultimamente per i discorsi dei vaccini. Per arrivare a un uso trasversale di questa tecnologia è ovvio che c'è bisogno di persone che si sottopongono a delle cure, fra virgolette, sperimentali. Non avete idea di quante persone abbiano scritto e si siano offerte per poter partecipare in questi trial clinici, perché il bisogno c'è. E pensate una cosa bellissima: il primo chirurgo che ha fatto gli impianti di questo tipo di ossa ha detto: non ho mai avuto un intervento così semplice e così efficace. Perché cosa si fa solitamente? Quando una persona ha bisogno di un impianto osseo, di nuovo, supponiamo zigomo, anche se quelli, gli esempi che vedrete, nessuno riguarda lo zigomo. Da dove lo prendono questo osso? Di solito è necessario per il chirurgo aprire un secondo sito operatorio, ad esempio prelevando dell'osso dalla cresta iliaca o da altre zone. Quindi va, smartella, scalpella, prende un pezzo di osso, in camera operatoria, veramente come un Michelangelo, cerca di sagomarlo, ma un chirurgo ortopedico non è un Michelangelo, anzi, cioè è lì con lo scalpello, eccetera, cerca di dargli la forma migliore possibile e farlo diventare un pezzo di zigomo. Quindi doppio sito chirurgico, sagomare lì in sede di teatro operatorio l'osso, reimpiantarlo nel paziente, chiudere i due siti, quindi danno doppio per il paziente, tempi estremamente lunghi per l'intervento e ovviamente non una perfetta, non un combaciare perfetto, diciamo, tra l'osso che io metto e quello nativo, diciamo, del paziente. Quindi questa è una cosa meravigliosa. Quindi che cosa c'è adesso? Il primo paziente, vedete qui, si era rotto completamente, adesso non mi ricordo mai, ma di mascella, la mascella. Quindi gli è stato creato, sono stati creati questi due pezzi, quindi il TMJ, sono gli ossetti che collegano mandibola e mascella, e un pezzo vero di mascella, quindi con le sue cellule sono stati creati questi pezzi, è stato impiantato, questo è uno scan fatto dopo solo 4 settimane, e si vede come si sia già integrato. Questo paziente, allora aspetta, questo è 3 mesi in settembre, quindi fa un anno fra pochissimo, sta benissimo, mangia, vive una vita normalissima, quindi enorme successo. Stessa cosa per il paziente 2, paziente 3, adesso sono arrivati a 5. Quindi in questo caso l'intervento era diverso, questo paziente soffriva di una retro, non so il termine esatto, però la mandibola era troppo all'indietro e gli portava anche un'occlusione delle vie respiratorie. Quindi grazie a questo intervento è stato creato un pezzo aggiuntivo di osso che ha consentito di riposizionare in maniera corretta la mandibola. Quindi anche qui tutto bene, questo allora 3 mesi e mezzo, adesso siamo, queste sono di 2 mesi fa, quindi quasi 6 mesi questo paziente. E la frase, diciamo, che la ditta usa come slogan è proprio che, di nuovo, il futuro lo stiamo progettando una cellula alla volta, e queste cellule sono proprio le nostre, cioè, quindi non sono cellule aliene, animali o cose del genere, sono proprio le nostre, cioè quello che il nostro corpo ha semplicemente bisogno di un aiuto, cerchiamo di darglielo nel migliore modo possibile. Va bene, qui io mi fermo e spero, insomma, di avervi convinto che tutte queste, anche questi termini, vedete anche qua, le materie prime, tutte cose che, insomma, noi da ingegneri conosciamo e vogliamo usare e portare anche all'interno del laboratorio. Quindi per fare un buon prodotto servono le materie prime migliori. In questo ultimo caso, ad esempio, abbiamo visto la materia prima migliore sono le nostre stesse cellule. Quindi scegliamo la materia prima migliore. E è chiaro che servono delle mani buone per gestire queste cose. E di nuovo, interdisciplinarietà. Noi ingegneri da soli non facciamo proprio niente. O facciamo poco. Nel momento in cui mettiamo insieme gli ingegneri, i chimici, i biologi, i medici, allora sì, nel momento in cui un team multidisciplinare riesce a mettere insieme sul tavolo tutte le proprie competenze e conoscenze, allora sì, riusciamo ad arrivare a delle soluzioni, a delle terapie, a delle cure in una maniera molto più efficace e possibilmente anche in maniera più rapida. Ecco. Basta, con questo vi saluto e ringrazio. Grazie. Però questa ve la devo far vedere. C'è un microfono in sala. Ecco. Perché aggiungo solo che è tutto bello, però insomma fare ricerca è una cosa estremamente faticosa. Gli insuccessi sono spesso più dei successi, quindi è importante che all'interno del laboratorio ci sia anche un clima di amicizia, collaborazione e, quando si può, anche divertimento. Quindi per quello mi piace far vedere anche queste immagini di convivialità, diciamo. Ecco. Intanto ringraziamo la dottoressa, che oltre a essere una ricercatrice è anche una professoressa dell'università, quindi quando fa esami è lei che fa domande. Oggi abbiamo l'opportunità di essere noi a domandargli. So che in sala ci sono anche dei suoi studenti che, se vogliono vendicarsi e fare domande alla professoressa, aiuto, possono farlo tranquillamente. Quindi c'è un microfono in sala che ho in mano. Aiuto. Se qualcuno ha curiosità, domande, qualsiasi cosa, siamo qua. Basta alzare una mano. Sono tutti timidi. Vabbè, non importa, sono abituata. Siamo abituati, sì. Vi ha stesi tutti proprio. Ecco, mi suggerisce Paola una domanda. Sì. Quante persone lavorano con te in laboratorio? Allora, vediamo. Questa è forse una delle più recenti, però non credo siano tutti. Siamo circa una ventina. più o meno, di persone diciamo più senior, quindi dai dottorandi in su, circa 15, con poi studenti magari che fanno la tesi eccetera in laboratorio, però insomma un buon numero, e dislocato nelle due sedi, quindi tra istituto di ricerca e il dipartimento di ingegneria. E ad oggi ci sono ingegneri chimici, ingegneri biomedici, biologi, biotecnologi, un fisico e basta, mi pare, non vorrei dimenticare qualcuno, però insomma, e soprattutto, vabbè, al di là del dipartimento dove appunto ci sono varie tipologie di ingegneri, soprattutto nell'istituto di ricerca pediatrica, lì veramente c'è la possibilità di confrontarsi con tantissime altre individualità, con tutto il loro bagaglio di conoscenze che non può far altro che arricchire tutti quanti. Chiaro che la comunicazione spesso non è semplice, perché i linguaggi, gioco forza, sono diversi. Noi chiediamo sempre quanto, quando, e loro, ma sì, metti, aggiungi, noi no, come? Quindi a volte ci sono delle barriere da tutte e due le parti, però alla fine, insomma, avendo tutti lo stesso goal comune, si riesce a camminare, insomma, nella stessa direzione. Bene, passo il microfono. Sì. Grazie. Faccio una domanda. Sono rimasto molto incuriosito da questa, cioè, questo biosso, si può chiamarlo, biosso, innesti di biosso. Sembra una cosa molto efficace e sì, potrebbe risolvere molti problemi. Volevo capire anche cioè, che tipo di utilità può avere anche in fratture in cui non c'è un distaccamento, ma in cui c'è una frattura proprio, sì, magari non così rilevante, cioè si può sì, chiudere anche una piccola frattura. Sì. E poi la seconda domanda era, cioè, effettivamente sembra una cosa efficace, che tempistiche ci sono, cioè qual è la previsione, quando potrà diventare una cosa effettivamente utilizzata in maniera sì, insomma, più frequente, sì, più certo. Allora, guarda, rispondo prima alla prima, quella che hai detto, cioè, è fondamentale, perché molto spesso le nostre ossa si danneggiano appunto non per un trauma gravissimo nel quale mi si spezza o si frantuma un osso, ma magari delle microfratture. Basta pensare ad esempio anche alla cartilagine, al menisco, queste cose qua. Quindi quello che potenzialmente si può fare sono delle iniezioni, quindi non tanto il pensare di costruire un pezzo che vada ad esempio magari ad aggiustare come una crepa, penso ad esempio in un vaso di ceramica, ad aggiustare la crepa. Lì si può pensare più ad un cercare di sigillarla con un materiale che possa essere magari indurente nel momento in cui lo inietto. Quindi queste sono cose che sono studiate, e soprattutto per il discorso anche della cartilagine nel menisco eccetera, sono anche questi degli argomenti di ricerca, quindi stanno facendo. Però, e questo si collega un pochino alla tua seconda domanda, per arrivare dalla ricerca al prodotto, guarda, minimo sono 10 anni. Quando io ho iniziato, questa dell'osso era già quasi matura, non per usare sempre il termine di maturazione, perché appunto prima c'erano già 10-15 anni. Quindi il momento di fare il salto dal bancone di laboratorio al letto di ospedale, come si dice in termini tecnici, era abbastanza piccolo. Questa parte invece che riguarda ad esempio la cartilagine e l'osteocondral, quindi osso più cartilagine, è ancora in fase di ricerca, cioè per dire adesso stanno facendo i test sugli animali, prima di arrivare ai pazienti. I pazienti sono il prossimo step, nel giro dei prossimi 1-2 anni si partiranno con gli esperimenti anche per questa cosa della cartilagine. Questa dell'osso invece è molto avanti, cioè se tutto continua facendo tutti gli scongiuri o quello che vuoi, come sta andando adesso, nel giro di 4-5 anni è possibile che questo prodotto diventi d'uso, non dico comune, perché poi è il chirurgo che lo deve scegliere. Non è mai il paziente che dice io voglio quello, diventa difficile che sia il paziente ad indicare. Però vista la propensione dei chirurghi ad avere appunto uno strumento di questo genere che diventa più efficace, più semplice da usare, più rapido, la volontà dei chirurghi c'è, quindi non vedo, cioè, vabbè, non voglio fare troppo l'ottimista, però insomma potrebbe avere una ricaduta in tempi molto rapidi. L'azienda adesso è in grado di portare questa sperimentazione a livello clinico, diciamo, alla fine solo di questa fase. Quindi i trial clinici sono tipicamente in tre fasi, fase 1, fase 2, fase 3, in cui si studiano cose diverse e il numero di pazienti aumenta sempre, così come i costi. Quindi un'azienda, diciamo, piccola, fra virgolette, come la nostra, che è nata come spin-off dell'università, non può pensare di riuscire da sola ad arrivare fino alla fine. Ed è lì allora che devono arrivare magari le grosse aziende interessate a un prodotto del genere, con il potere sia economico che la rete per trovare i chirurghi, i pazienti, eccetera. Quindi, insomma, speriamo che tutto continui bene. So far, so good. Epibon. Niente. È a New York, però, purtroppo. Per fortuna loro, purtroppo per noi. Il costo? Ho chiesto. Allora, ecco, questo è un problema, fra virgolette, un problema maggiore appunto per gli Stati Uniti, dove il costo della sanità è a diretto carico, diciamo, ed è a diretto carico anche nostro, perché ci paghiamo le tasse, eccetera. Però per loro è proprio un esborso. Infatti, una delle attenzioni principali dell'azienda è rivolta verso le compagnie di assicurazioni. Non so se lo sapete, ma negli Stati Uniti ognuno deve assicurarsi con un'assicurazione sanitaria per poter pagare le spese mediche. Perché lì il conto arriva con l'effettivo... Noi andiamo a farci gli esami del sangue e paghiamo 20-30 euro. Il costo vero sono 300-400 euro per il sistema sanitario. Forse ho anche sottostimato. Negli Stati Uniti uno va a farsi il prelievo del sangue e paga 700 euro. Quindi se non ha l'assicurazione, che corrisponde parte di questo ammontare, non ce la fa. Comunque, la risposta è che circa per un pezzo d'osso si viaggia sui $30,000. Cosa che non è assolutamente lontana al costo di quelli che sono gli impianti usati adesso, quindi o artificiali, titanio, oppure con col doppio intervento. Anzi, costano di più se uno pensa a tutto il follow up, quindi il fatto che il paziente è affetto da due siti di operazione, potenzialmente esposto al rischio di infezioni in due siti anziché uno. Quindi il costo, questo considerando tutto, le ore del chirurgo, la terapia intensiva, l'anestesia, tutto quanto. Quindi diciamo che questi erano i conteggi che erano stati fatti e sono forse anche un pochino sotto rispetto a quello che si fa normalmente, insomma sarebbe il costo vivo che ognuno di noi affronterebbe. Un'ultima domanda veloce, sì. Poi le lasciamo andare, certo. Visto che deve raggiungere Padova per festeggiare 10 anni. Esatto. No, stasera si è parlato di cellule staminali, mm-hmm. E in questo caso specifico che replicano del tessuto osseo. Sì. Lei è convinta, pensa che possano essere utilizzate anche per risolvere altri tipi di patologie? E questo potrebbe essere anche un po' il futuro da un punto di vista terapeutico? Sì, assolutamente, stando estremamente attenti e lontani anni luce da tantissimi dei ciarlatani che purtroppo si sono riempiti la bocca con fandonie, anzi facendo un enorme danno a quella che può essere invece la serietà della ricerca. Non voglio far nomi, ma insomma il caso Stamina è il più evidente, cioè lì è stata venduta una cosa miracolosa, no, e quindi il danno fatto da, purtroppo, come sempre, cioè si sa, in qualsiasi ambito costruire una reputazione ci vuole una vita, distruggerla bastano 2 minuti. Quindi in quel caso quello che è successo ha portato a un tornare indietro di 20 anni. sia nella fiducia delle persone nei confronti della ricerca che sulla possibilità di ricerche di questo genere effettivamente di andare avanti e di vedere la luce. Perché, ripeto, nulla è semplice come molti di questi, scusate, ho detto ciarlatani, ma purtroppo lo penso, cercano di vendere. Dietro c'è tanto, tanto, tanto studio. Ci vuole tempo, ci vuole attenzione, ci vuole devozione, dedicare anni e anni e anni e anni della vita di ricercatori, medici, persone, eccetera. Le cellule staminali hanno un potenziale enorme perché sono cellule nostre, sono cellule che dentro al nostro corpo noi abbiamo, quindi loro sono lì e se gli vengono dati i segnali giusti ci possono aiutare. Bisogna fare attenzione perché se i segnali non sono quelli giusti ci possono fare del male. Quindi io mi fido moltissimo della scienza, perché insomma, anche se volete ritorno al mio tema favorito dei vaccini, appena sono usciti i vaccini Covid ho detto fatemi quello che volete, fatemene i 5 tutti mescolati, io li prendo, perché mi fido, perché so cosa c'è dietro. Quando si diceva che il vaccino per il Covid è stato sviluppato in tempi troppo brevi, no, perché c'erano anni e anni e anni di ricerca dietro la tecnologia che ha portato alla produzione del vaccino. Pensate ai due nuovi, no? Pfizer e Moderna, con questa tecnologia RNA modificato. È arrivato da 15 e passa anni di ricerca. Perché l'hanno fatto così velocemente? Perché sapevano cosa fare, sapevano che funzionava, hanno semplicemente adattato quella tecnica allo sviluppo di un vaccino. La mia fiducia è incondizionata quando so da dove viene arrivata. Purtroppo qui ci si mettono anche i canali di comunicazione, come dicevamo prima. Molto spesso la comunicazione è scarsa, malfatta, deviata. Quindi il, fra virgolette, pubblico generale, non esperto, fa fatica a trovare l'uscita del labirinto. Oppure prende quello che è più facile prendere. Quindi le informazioni, cioè siamo tutti portati, a tutti piace il pettegolezzo, la sensazionalità. Quindi siamo come esseri umani fallaci, siamo portati magari più facilmente a credere a complotto, tutte queste cose qui, no? E quindi purtroppo avere magari un'informazione che tende, proprio per il fatto di fare spettacolo, fare audience, a portare le persone a credere alle cose più sensazionali piuttosto a quelle più concrete, ci porta un pochino fuori strada. Bene, direi giustamente, iniziamo a ringraziare la dottoressa. Che Purtroppo non abbiamo una valletta elegante, ma abbiamo un super tecnico che si presta a fare il valletto. Sarà un piccolo omaggio. Grazie. Grazie. Bene. Ero certo che ci saremmo arricchiti in questa serata ed effettivamente credo che sia stato proprio così. Ringrazio ancora la dottoressa Cimetta e vi do appuntamento se avete piacere alle prossime serate e vi ringrazio della vostra presenza. Credo che il bar sia ancora aperto e la birra è ancora fresca. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Non so, ma adesso mi chiedo a Paolo di dare quello che è. Vabbè.